Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questa puntata vi diamo conto brevemente dell'incontro che si è svolto venerdì scorso con la delegazione Caritas del Nord-Est, Coordinamento Immigrazione Triveneto, un seminario di formazione all'Istituto Salesiano San Marco di Mestre sul tema famiglie immigrate, costruire futuro insieme. È stata un'occasione per volontari, operatori Caritas di avere un'idea precisa della situazione in cui versano le famiglie di immigrati nel Nord-Est e in Italia. Tra i relatori, anzi era proprio il moderatore, Olivero Forti, responsabile dell'ufficio immigrazione di Caritas Italiana. Considerazione, Oliviero, su questo tema, le famiglie immigrate e il loro futuro. Siamo in una situazione in cui i dati Istat ci proiettano fra 30-50 anni in Italia a un calo nettissimo della popolazione, forse nemmeno la presenza delle famiglie che arrivano dall'estero potrà compensare questo calo. Cosa dice lei? Ma diciamo che nel medio periodo sicuramente la presenza immigrata costituirà un fattore importante di riequilibrio demografico. Poi sappiamo, perché questo ce lo insegna la letteratura scientifica, che le famiglie di origine straniera comunque tendenzialmente assumono comportamenti anche riproduttivi molto simili a quelli autoctone, per cui adesso nessuno è in grado di dire fra 50-70 anni se la componente immigrata sarà quella che permetterà alla società un tasso di sostituzione adeguato. Per oggi il tema è quello di comprendere come la dimensione della famiglia nel processo migratorio sta reagendo alle tante crisi, non solo economiche e lavorative, ma anche culturali, si stanno in qualche modo affacciando e anzi consolidando nel nostro paese. Un altro dato che emergeva in questi giorni, Fondazione Leone Moressa, è la presenza, ma questa è una ovvia conseguenza, la presenza sempre più numerosa degli alunni di origine straniera, certamente nati in Italia, nelle nostre scuole. Ma questo ancora a tanti anni di distanza, con la presenza ormai abituale degli stranieri tra di noi, comunque nel dibattito suscita un problema. Come mai, secondo lei? Allora, l'aumento della presenza è collegato a quello che si diceva prima, chiaramente più famiglie migranti nel nostro paese o quantomeno con esperienza migratoria, ragazzi di origine straniera nelle nostre scuole. In alcuni contesti il numero è veramente importante rispetto alla popolazione scolastica cosiddetta autoctona, e questo chiaramente crea in alcuni contesti disorientamento, perché non sempre c'è la preparazione adeguata né da parte del corpo docente né da parte della comunità di gestire quella che viene definita sbrigativamente una diversità, che spesso colpisce più chi ha un'esperienza migratoria recente, per cui spesso bambini che vengono da altri contesti, altre culture, altri percorsi scolastici, meno chi è già nato in Italia e purtroppo rimane comunque cittadino straniero, perché oggi non ha la possibilità di diventare italiano per la nostra legislazione, e che invece magari ha più facilità. Questo non, come dire, deve però far tralasciare il fatto che spesso se il bambino riesce a integrarsi bene in classe, la stessa cosa non avviene nel rapporto tra i genitori di questi bambini e i genitori dei bambini italiani, per cui le questioni sullo sfondo sono diverse, ma fanno parte, come dire, di processi che hanno una portata storica e che vanno chiaramente accompagnati. Non c'è una soluzione nel brevissimo periodo, però diciamo che la scuola probabilmente è l'ambito nel nostro paese che sta reggendo meglio a questo cambiamento d'epoca. L'ultima cosa, Oliviero, c'è migrazione e migrazione, nel senso che negli occhi e nelle cronache abbiamo i barconi di questi mesi appunto dall'Africa, ma continua a esserci la migrazione regolare. Allora, la migrazione regolare nel nostro paese è ridotta ormai al lumicino, perché il nostro sistema non permette l'ingresso regolare se non in casi spesso difficilmente praticabili. Oggi la via più, come dire, praticata di migrazione legale e regolare è quella del ricongiungimento familiare. Quindi con un sistema sostanzialmente chiuso a riccio, l'unica possibilità di raggiungere il nostro paese è la migrazione irregolare, quella che noi vediamo solitamente o attraverso i cosiddetti barconi o anche con altre modalità che sono meno scenografiche ma anche importanti, che sono l'attraversamento dei confini terrestri o l'arrivo in Italia o in altri paesi europei con visti per il turismo, quindi limitati, che poi si trasformano in una presenza irregolare. Questo chiaramente è l'effetto di un sistema che non riesce, per volontà politica evidentemente, a regolare i cosiddetti flussi irregolari. Era Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio migrazione di Caritas Italiana, tra i relatori anche il professor Maurizio Ambrosini dell'Università di Milano, direttore della rivista Mondi Migranti, che è intervenuto sul tema delle tre famiglie dei migranti. Ma che cosa sono? La famiglia dei migranti attraversa tre fasi. C'è una famiglia che vive insieme al paese d'origine, prima famiglia, poi parte uno dei coniugi adulti, e la famiglia continua a vivere nella nostalgia, e la terza famiglia è quella che si ritrova ricongiunta nel paese di destinazione, ma non è un lieto fine bensì un nuovo inizio, perché tutti sono cambiati. Cambiano loro, ma cambiano anche coloro che poi si trovano ad accogliere o a convivere vicino o insieme a queste persone. Certamente. Quindi il cambiamento è sempre reciproco, no? Certamente diventa un'altra cosa anche l'immigrazione, è diventata, sta diventando un'altra cosa, c'è 1.100.000 minori per esempio. Lei nel suo intervento ha parlato per queste tre famiglie dei migranti di un compito, una sfida e una speranza per tutti, ci può spiegare? Sì, ho sottolineato anzitutto che c'è una dimensione paradossale, le nostre famiglie stanno insieme, riescono a stare a galla, a rispondere a tanti problemi grazie al fatto che importano donne immigrate, ma questo fatto destabilizza le loro famiglie, questo è il primo problema. Il ricongiungimento è un modo di cercare di riaggiustare gli equilibri, ma pone nuovi problemi a tutti, da una parte ai ricongiunti, per esempio ragazzi che al loro paese, grazie alle rimesse, erano benestanti e qui si ritrovano a essere poveri. E secondo, una sfida, come dicevamo, per le società di accoglienza. Da una parte l'immigrazione familiare è un'immigrazione più integrata, fa meno paura, dall'altra richiede più servizi, comporta un'attenzione e degli investimenti anche, per esempio nella scuola, per l'accoglienza dei nuovi arrivati. Quindi l'immigrazione familiare è certamente un progresso dal punto di vista delle possibilità di stare insieme, di convivenza, ma se non è accompagnata non riesce a dare gli apporti positivi che ci possiamo attendere. La nostra legislazione, però, il nostro paese, più in generale anche l'Europa, insomma, non mi pare siano però molto pronte da questo punto di vista. Lei cosa dice? Ma l'Europa è il contesto, l'Europa, il mondo occidentale, da tempo ha acquisito l'idea che in paesi democratici non si può impedire alle famiglie di ritrovarsi, di vivere insieme. Questo è un diritto primordiale. Di certo in vari paesi stanno sorgendo difficoltà e ostacoli nei confronti dei ricongiungimenti familiari. Siamo comunque meglio di paesi come l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo, dove è praticamente impossibile il ricongiungimento, ma direi che oggi il maggiore problema è che si dice immigrazione e si pensa agli sbarchi. Questo è fuorviante. Gli sbarcati sono le persone accolte nel nostro sistema di protezione internazionale sono meno di 180.000. Gli immigrati in Italia sono 5 milioni e mezzo e sempre più sono famiglie immigrate, come dicevo, con 1.100.000 minori. Allora credo che ci sia un problema di sfasatura tra la nostra visione del fenomeno e come il fenomeno invece sta evolvendo nella realtà. E per dire, siccome ci fanno paura i richiedenti asilo, gli sbarchi, si chiudono le porte alla cittadinanza e non va avanti la nuova legge che consentirebbe a tanti giovani e persone immigrate di godere pienezza di diritti anche politici, con una maggiore possibilità di contare ed identificarsi nella società in cui vivono. Grazie anche al professor Maurizio Ambrosini dell'Università di Milano, direttore della rivista Mondi Migranti, un tema, questo appunto delle famiglie immigrate, che è stato sviluppato nell'incontro di venerdì all'Istituto Salesiano San Marco di Mestre, dove sono state anche le testimonianze del gruppo di lavoro sugli immigrati residenti a Treviso con Anolf, Caritas Migrantes, cooperativa LAS, sul tema delle famiglie immigrate al tempo della crisi in alcuni territori del Triveneto. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.